Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che vi sto per annunziare, perché è il messaggio che il Dio mi ha messo in cuore di trasmettervi. Vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, cioè l'unto del quale avevano parlato ab antico i profeti di Dio. Essi infatti parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo e annunziarono la venuta del Cristo o Messia. Il Cristo doveva morire per i nostri peccati. Infatti, così aveva detto il profeta Isaia, secoli prima che Gesù venisse in questo mondo per volontà dell'Iddio e Padre suo. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi la morte del Cristo era stata preannunziata come una morte propiziatoria, cioè quella morte che il Cristo avrebbe patito sarebbe stata una morte espiatoria, cioè con il fine di espiare i nostri peccati. Non solo, era stata preannunziata da Dio in merito al Cristo anche la sua resurrezione, cioè il Cristo doveva risuscitare dai morti. E difatti Davide, che era profeta, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Infatti in uno dei suoi salmi il dolce cantore di Israele disse queste parole: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, queste scritture profetiche si sono adempiute nella pienezza dei tempi in Gesù di Nazaret, ed io vi annunzio appunto che ciò è la buona novella. La buona novella, non una delle tante buone novelle, ma la buona novella, ossia l'Evangelo. E vi dico pure che chi crede nella buona novella viene giustificato, ossia viene reso giusto in virtù della sua fede nel Cristo di Dio, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Infatti la giustificazione per fede fu preannunziata, anche questa, da Dio per mezzo dei suoi profeti. Abacuc infatti scrisse: il giusto vivrà per la sua fede. E dunque io vi annunzio che, credendo nell'Evangelo, la vostra fede vi sarà messa in conto di giustizia. Sarete resi giusti da Dio, riceverete da Dio la sua giustizia che si basa sulla fede. E credendo nell'Evangelo sarete anche salvati, liberati dai vostri peccati, dei quali voi in questo momento siete ancora schiavi, perché chi commette il peccato, che è la violazione della legge, è schiavo del peccato. Ma credendo nell'Evangelo sarete affrancati dal peccato, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. E credendo nell'Evangelo sarete perdonati, perché riceverete da Dio la remissione dei vostri peccati. Cioè i vostri peccati vi saranno cancellati, perché è scritto che di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E credendo nell'Evangelo riceverete la vita eterna. La vita eterna, infatti, è il dono di Dio in Cristo Gesù. Il dono di Dio. Non lo si può meritare, non ce lo si può guadagnare. Lo si può solo ottenere gratuitamente da Dio. Considerate dunque, credendo nell'Evangelo, quante cose si ottengono da Dio per la sua grazia. Già, per la sua grazia, non in virtù di opere compiute, di opere meritorie, no, ma per la sua grazia, per il suo immeritato favore. E quando crederete nell'Evangelo, per chi crederà nell'Evangelo, ci sarà una grande gioia, una grande pace, che appunto è il frutto della grande salvezza che appunto si riceve. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sì, coloro che credono nell'Evangelo hanno pace con Dio. Non sono più nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere malvagie, ma sono amici di Dio, perché appunto Dio li ha riconciliati a sé. E tutto questo per mezzo del Cristo. Quindi per mezzo di Gesù, che ha dato la sua vita per noi, affinché noi vivessimo. E dunque io vi esorto a ravvedervi, quindi a cambiare modo di pensare, abbandonando i vostri pensieri iniqui e vani, e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Vi sentirete rinascere, perché credendo nell'Evangelo diventerete figlioli di Dio. Sì, figlioli di Dio si diventa. Non è che si nasce venendo in questo mondo figlioli di Dio. No, no, figlioli di Dio si diventa credendo nel nome del figliolo di Dio. Quindi vi esorto, ravvedetevi e credete in colui che è il Cristo, del quale parlarono gli antichi profeti da parte di Dio. Vi ho annunziato dunque la buona novella, vi ho annunziato appunto mediante l'Evangelo, vi ho annunziato la via della salvezza, che è una sola. Una sola, non ci sono più vie di salvezza, ce n'è una sola, perché c'è un solo Salvatore, uno solo, il suo nome è Gesù Cristo, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Egli è il Salvatore del mondo, per questo il Padre lo ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Sì, per questa ragione Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E tu sei un peccatore. Ravvediti dunque e credi nella buona novella che Gesù è il Cristo e sarai salvato. Sarai strappato dalle fiamme dell'inferno dove sei diretto, perché devi sapere che tu, in quanto peccatore, sei diretto all'inferno, in questo luogo di tormento nell'aldilà, dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi considera, se tu dovessi morire in questo preciso momento, senza essere salvato, giustificato, riconciliato con Dio e perdonato, te ne andresti direttamente all'inferno. Non esiste il purgatorio. Il purgatorio è un'invenzione della Chiesa Cattolica Romana, o comunque dei cosiddetti padri della Chiesa. Il purgatorio non esiste, è un luogo inesistente. E dunque, se tu morissi nei tuoi peccati in questo preciso momento, te ne andresti all'inferno, dove c'è il fuoco, dove saresti nei tormenti. Ma devi sapere questo, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quindi ravvediti e credi in Lui, il Signore avrà misericordia di te, ti perdonerà, ti salverà, ti giustificherà, ti darà la vita eterna, strappandoti così al fuoco dell'inferno. L'inferno esiste. L'inferno esiste, è un luogo reale, come è reale il fuoco all'inferno. E guarda che all'inferno le anime che ci sono tormentate. Sono tormentate. Perciò ti scongiuro nel nome del Signore, ravvediti, o peccatore, e credi nella buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda.